una barba lunga. Posso accendere una sigaretta? Barbieri Ezio. Nato e cresciuto a Milano, in via Pietro Borsieri, quartiere Isola. Il giorno dei morti del 1922. Non ho mai confessato. Dovrei farlo ora. Luciano De Maria. Nato il 12 luglio 1930 a Vald, Svizzera, nel cantone di Zurigo. Io sono nato il 4 marzo 1939 ad Altenkassel, in Germania, nella regione della Sara, ai confini con la Francia, da Bert Heinz, operaia tedesca, ed Alfonso Fantazzini, detto Libero, partigiano anarchico bolognese, muratore. Horst significa rifugio. L'ha scelto mio padre, rifugiato politico. Cavallero Pietro, nato il 1 gennaio 1929. Sono di Torino, anzi, della barriera di Milano. Se Torino era la città più proletaria del nostro paese, beh, la barriera di Milano era il quartiere più proletario di Torino. Casaroli Paolo, classe 1926, nato a Bologna. Però non si capisce dalla pronuncia, vero? No, non si capisce. E voi non capite nemmeno me. O sbaglio? Sono nato a Milano. 30 dicembre del 1937. Mi chiamo Luciano Lutring. Soprannominato nella malavita e nel milieu il solista del Mitra. Vi ricordate di me? Riuscite a comprendere come un ragazzo normale, uno studente, un figlio di famiglia, tutto un tratto si butti all'avventura, no? Volete scoprire che cosa c'è qua dentro? Volete decifrare Paolo Casaroli? Non è mica facile, sapete. Perché ha fatto quello che ha fatto? Colpa della natura? Dei padri, delle madri, del dopoguerra, delle circostanze? Sono stato bandito. Per qualche anno sono stato il padrone di Milano. Padrone nel senso che potevo fare quello che volevo, andare dove volevo e prendere quello che volevo. E ho preso dove ho voluto, dove c'era da prendere. Anch'io mi sono chiesto tante volte perché sono diventato bandito. E ho pensato che l'unico motivo, l'unica ragione, è stata la Milano dei tempi della guerra. Io ero giovane a quell'epoca, Sono nato nel 1922. E Milano era distrutta dalla guerra. C'erano interi quartieri rasi al suolo e anche la mia casa, la casa di mia madre e delle mie sorelle. Io sono diventato bandito perché vedevo tutte le mattine mia madre alzarsi alle 4 per andare a fare la coda per ore per avere mezzo chilo di pane. E anche perché tutta Milano era così. C'era una metà della città che viveva sull'altra metà. Una prendeva l'altra e l'altra subiva. Che la rapina ce l'avessi nel sangue. Però, sai, crescevo lì con le immagini di tutti questi fascisti, partigiani, i ragazzotti che nel dopoguerra salivano sulle montagne e lì avevano cominciato ad assaltare, ammazzare, sequestrare, così venivano tutti a frequentare il locale dei miei in via Novara, a San Siro, a Milano. E lì tutti raccontavano un po' le loro imprese, no? Io ho saltato un camion, io un carro armato. C'era quelli della banda Bezzi e Barbieri, c'era Dino il paracadutista, Gino lo zoppo e tutti questi qui. Quando ormai la guerra era agli sgoccioli, avevano fatto saltare per aria le cassaforti delle banche con la dinamite. E lì al bar era facile perché quando c'era una retata potevi scappare dal retro. E allora tutti questi balordini e balordoni l'avevano soprannominato il Crimen Bar. Nel 1945 siamo arrivati a Bologna che non esisteva più. E io studiavo la sera, di giorno lavoravo, ho fatto un po' di tutto. Ho fatto l'operaio, ho fatto il fattorino. Solo che la paga era bassa, le condizioni di lavoro erano umilianti. E io avevo altre ambizioni, avrei voluto continuare a fare il pugile, a fare il ciclismo, perché insomma stavo forte da ragazzo. Ero appassionato a vari sport, ma fra tutti preferivo il calcio. Da piccolo la domenica facevo raccattapalle all'arena e mi capitava di incontrarci Meazza. Gli davo del tuo, hai capito? Lo chiamavo Pepin, così come un compagno di squadra dell'oratorio. E conoscevo anche le leggende della prima squadra, quelle allenate da Arpad Weiss. C'era l'Annibale Frossi, il Giovanni Ferrari, il portiere Cirasoli, Levratto. Ero bravo in campo, eh? Non come il Pepin, ma ci sapevo fare. Mi sono fatto tutte le trafili delle giovanili dell'Ambrosiana, dai Pulcini alla prima squadra. Un tipo della società mi ha persino fatto fare il provino per entrare in squadra, dico, nella squadra vera, eh. Non è andata. Lo so, le cose potevano andare in modo diverso, se solo fossi stato più veloce coi piedi che col grilletto. Ricordo che mia madre la vedevo uscire di notte, che fuori era ancora buio, c'era la neve alta, un freddo cane, e lei percorreva a piedi la strada che portava in fabbrica dove lei lavorava come operaia. Mio padre era muratore e lo odiavo, fu un pessimo padre, donnaiolo, violento. Giorno prendo una sedia e gliela spacco addosso. Io covavo così tanta sofferenza per colpa sua che sono andato avanti a farmi la pipì a letto fino a quando avevo 16 anni. A Torino lo spirito rivoluzionario si respirava nell'aria, insieme al fumo delle fabbriche, allo smog delle industrie. C'erano ben 3 sezioni Fiat, con le migliaia di operai in tuta, le acciaierie, la fonderia, la grandi motori, dove è impiegato il meglio degli operai specializzati, quelli che fanno i barbiers, i baffi alle mosche. Non c'erano molte scelte. Nelle barriere, nei casermoni della periferia, nelle case popolari. O continuare a lavorare a testa bassa, magari a trovare un posto da impiegato commesso al figlio più sveglio, oppure si piantava lì, baracche e burattini, a fanculo questa società di merda e si comincia dal Ferrante a Porti, il carcere minorile, per poi finire in Corso Vittorio, o a battere il marciapiede, o alle Nuove. Che anno era? Il 51 o il 52? No, doveva essere 52. Togliatti parla al Parco Michelotti e io scendo al Po con Danilo Crepaldi e con gli altri ragazzi della barriera di Milano, una cosa mai vista. 400 giovani. Un corteo lungo mezzo chilometro dietro di me. Proprio sotto gli occhi dei vecchi compagni. Dicevano, Dio fa, Alendrago il Piero. Non avevo problemi a menare le mani. Capitava spesso di doversi scontrare con dei fascisti che cercavano di rompere i coglioni in barriera. E poi c'erano i crumieri. Volente o nolente, un crumiero è un traditore e un nemico, anche se non lo sa. E bisogna farglielo capire, con le buone o con le cattive. E ogni tanto i caramba e i pulè mi beccavano e passavo una notte in guardiana, ma finiva lì. Brecht diceva che è più criminale fondare una banca che rapinarla. E io sono d'accordo con lui. Conoscete Nietzsche? Chi adempie la sua vita morirà la sua morte da vittorioso, circondato dalla speranza e dalle promesse di altri. Questa è la morte migliore, morire in battaglia e profondere un'anima grande. Anch'io andavo in giro con una Smith & Wesson della polizia canadese, senza pallottole però. Senza pallottole io non sparavo mai, così... Per fare il ganzo delle volte facevo il rumore degli spari. Mi mettevo dei petardi sotto le suole degli stivali. Pim pum pam, sparavo così, facevo il macio, andavo in giro con una Cadillac. E quando stringevo una ragazza, invece di farle sentire il canarino, le facevo sentire la pistola. Una volta... Mia zia, Vittoria, mi fa, vai a pagare le bollette alla posta, va bene? Vado. E siccome l'impiegato era lento, allora, pam, ho dato un pugno sul bancone, no? E così nell'alzare il braccio si è vista la pistola, evidentemente, che stava sotto la cintura. Questo qua si è preso paura e mi ha dato tutti i soldi. E ho pensato che fosse una rapina, no? E dentro di me ho pensato, ma è così facile. E allora ho preso su tutto e sono andato via. Lo sapete come abbiamo deciso di scendere sul piede di guerra? Tirando in aria una scatola di cerini. Se veniva a testa, continuavamo a cercare un impiego. Invece era croce. E via con le banche. Ladri non ci si improvvisa e non lo si fa da isolati, bisogna conoscere le tecniche, i ricettatori. E Danilo conosceva un sacco di gente nel quartiere, molti ex partigiani, e quindi trovare le armi non era un problema. Mi ricordo quel mitra tedesco, ce ne andavamo in aperta campagna in un luogo deserto e avevamo anche costruito una specie di sagoma con un asse e un pezzo di cartone. Il mitra non dava rinculo, era pesante ma maneggevole. Sante sparò qualche raffica ma tirava orizzontalmente. Gli ho fatto vedere io come si faceva. Raffiche brevi. Tre o quattro colpi. Trasversalmente, dall'alto in basso, da destra a sinistra e viceversa. Senza mirare. Ogni volta almeno un colpo andava a segno. Perché il mitra tende ad alzarsi e tu credi di sparare in quel punto, ma invece sei completamente fuori bersaglio. Se tiri diagonalmente, la superficie che puoi colpire si allarga. Comunque Sante prese subito confidenza con il mitra e io lo incitavo. Pensa se quello, quello lì, pensa se quello fosse Agnelli o Aletta o un bastardo fascista o Scelba o uno sbirro. Dai, dai, tiriamogli dentro a sti porci. Poi a 18 anni mi sono sposato con Anna, che ne aveva 17. Andavamo, tiravamo avanti a fatica. Per fare la vacanza al mare ho rapinato l'ufficio postale di Corticella. Sì, con una pistola a giocattolo. Ero un po' nervoso, ero un po' così, un po' impaurito. C'erano 3 impiegati, c'erano 2 uomini, una donna. C'era un po' di gente. Io mi sono avvicinato a un cassiere con la borsa, gli ho fatto vedere la pistola. Ho aspettato che la gente se ne fosse andata e ci ho detto: dammi tutti i soldi che c'hai lì dentro. E niente, quello è stato il mio primo colpo. Il primo colpo è stato in un negozio di latticini. E andò tutto storto. Io spaccai la testa al proprietario col mattarello e mi beccarono. Non c'avevo ancora 18 anni e mi trasferirono al carcere minorile Beccaria. Tirati su, come ti chiami? Non ricordo chi mi definì il Napoleone del delitto. Qualcuno della stampa pensò anche di chiamarmi il Dillinger bolognese. Mi piaceva, ma non attecchì purtroppo. Sì, hanno scritto molto su di me, anche gente brava, importante, qualificata. Enzo Biagi, per esempio. Conoscevo il suo nome, mi parlava di lui. Romano. Ranuzzi. Ranuzzi leggeva tutto, conosceva tutti, si interessava di giornalismo. Era un ragazzo buono, sapete. Lo conobbi prima della guerra, in una palestra. Sandro Bezzi, classe 1920 di Baggio. Lo chiamavano pugno proibito. Non aveva una lira. Ogni tanto gli facevano anche una colletta. Poi era analfabeta, non sapeva né leggere né scrivere. Io gli ho messo un sacco di soldi in mano e gli ho dato anche una macchina. E lui mi fa: vedi che io però non so guidare. E io: fai guidare la macchina a qualcuno, no? Fatti scorazzare. O dopo una settimana lui aveva imparato a guidare con quella stessa macchina. Hai capito? Ha cominciato con me dal nulla, con le gioiellerie e le banche. Il mio migliore amico era Arnaldo Gesmundo. La stampa lo chiamava Jesse il bandito. Eravamo due tipi da film americano o francese, vestiti come dei manichini dai grandi magazzini, giovani, assetati di figa, di soldi, insicuri e violenti. Non sapete, non potete capire cos'è l'amicizia. Pensate che mentre stavo morendo sull'automobile, Ranuzzi mi ha messo una mano sulla spalla e con un sorriso mi ha salutato. Ciao Paolo. E l'avete letta l'ultima lettera di Farris? Caro Paolo, l'ultimo pensiero è per te. Farris era il vero ufficiale dell'SS, freddo, selvaggio. A 15 metri, con una pistola da bersaglio, spegneva una candela. Sono stati fortunati quelli della cellula, perché Farris e Ranuzzi si sarebbero divertiti a buttare una bomba a mano sul camion della polizia. e mandare all'altro mondo 30 o 40 agenti. Sarebbe stato un macello se ci venivano incontro. Ma fra di noi, guai se ci scappava anche solo una parola un poco troppo forte, aggressiva. Il giorno dopo ci mandavamo delle lettere per chiedere perdono, come fidanzati. Quando io mi arrabbiavo, però, stavano zitti tutte e due, lui e Daniele. Subito. La prima volta che parlai con Sante Notar Nicola era arrivato a Torino da poco, un arabetto della provincia di Taranto. Lo vidi al circolo ricreativo della sezione, era insieme ad altri ragazzi. Io lo chiamai e gli chiesi se sapeva cos'era il comunismo, davanti a tutti. Povero gagno Tarunet, era così in imbarazzo, balbettò qualche cosa e io l'ho fermato e gli ho detto che il comunismo è l'associazione di tutti gli uomini migliori, i più onesti, i più coraggiosi, e tutti insieme avremmo potuto cambiare le cose e l'Italia intera sarebbe diventata come la barriera di Milano. Sì, dove i fascisti e i democristiani avevano la coda tra le gambe, la polizia veniva controvoglia e i padroni la prendevano bassa bassa e non si azzardavano mica tanto ad alzare la cresta. La molla più eccitante, le belle ragazze. Ogni volta che ne conquistavo una mi esaltavo. Giubbotti della quinta armata e per far scena P38 e caricatori di mitra nella cintura. Poi si rubava un'automobile e via, a corsa pazza, sfondando motori, paracarri, puttane, sì, ma che meraviglia. Faccia la schiscia a materas, come diciamo noi di quelle di Basso Conio. Oppure le guanguane, quelle d'alto bordo. O le bramose, eh? Semplicemente bramose, perché alla resa dei conti, se uno ci sa fare, puttane sono un po' tutte le donne. Decapotabile, piena di valigie, di due farlocche svizzere. Allora abbiamo rubato le valigie. Abbiamo aperta una e lì si è detto, mi dà delle cose, tutti di pizzo, però bella roba, capito? Roba raffinata, è una fotografia. Stupenda. Io mi sono innamorato di questa qua. Questa qua me la sposo. E infatti, gli ho restituito la valigia e 40 giorni dopo me la sono sposata. Yvonne si chiamava. Yvonne faceva l'entraîneuse. Entraîneuse all'epoca vuol dire una che faceva la bella vita, ma una gran signora, capito? Ce l'ho portata a casa a mia mamma, no? Mia mamma non ci poteva credere. Ho visto arrivare questa qua con i guanti lunghi fino a qua, i capelli lunghi, tutta truccata, così. Col tacco da 13 centimetri. Mia madre era mica abituata a quella cosa qui. Io stavo con la Giannina, una ragazza del quartiere che ci mettevi le mani sotto le gambe, ci aveva le mutande fatte con l'uncinetto, ti pizzicavano, roba da matti, sembravano l'antifurto, così. Ma io ero un sognatore. Mi piaceva le calze di seta, le giarrettiere, la Pampanini. E mia mamma non era mica abituata a quell'ideale qua di donna così troppo sexy, troppo all'avanguardia. E allora mi ha sbattuto fuori di casa. E allora io ho preso la custodia del violino e poi lì ci ho messo dentro il mitra. Per quello lì che il giornalista Di Bella mi ha dato il soprannome di solista del mitra. Nel 55 ho sposato Anita. Non era una compagna. Per gli altri era una madamin con i Trevisun. E i Trevisoni in Corso Vercelli vogliono dire tre code di una qualche bestia da attaccare al colletto del paltò. Una ragazza buona, molto a modo. Era una che faceva poche domande. Colpo, poi niente, ci siamo trovati con un bel po' di soldi in più rispetto a quando lavoravo. E Anna un po' così era sorpresa. Io le avevo detto che avevo avuto un incidente in macchina e che quelli sarebbero stati, insomma, erano i soldi dell'assicurazione. E quindi con quei pochi soldi in più abbiamo comprato un po' di mobili per arredare la casa. Abbiamo comprato una stufetta economica, poi un frigorifero, insomma, quella roba lì, no? Il ritorno dell'ulcera. Stasera c'è l'ulcera. Una sera c'è mal di testa, una sera c'è mal di schiena. Tutte scuse, sono stufa. Te lo devi dire te adesso, quando... Perché no, scusa? Che non c'è mai voglia. Sono tre mesi che prendo la pillola per niente, sono stufa, pianta. Capito? Piantala. No, piantala lo dico io. Dai un taglio, taglia. Ma cosa che ti vuoi tagliare? Dov'è che vai adesso? Non andare in salotto. Ma che non metto in disordine. T'ho detto di non andare in salotto, stai qua. Ma perché? Non c'è un televisore anche di là. Se vuoi vedere la televisione, te la guardi qua, te la guardi. Una volta con la Ivone eravamo a Milano, a Bifia, a mangiare una fetta di panettone e bere due bicchierini di spumatino, alla vigilia di Natale, capito? Come tradizione milanese richiede. Siamo usciti così a braccetto per andare al parcheggio a prendere la macchina e mia moglie fa, guarda là, c'era una vetrina tutta illuminata con una pelliccia di ermellino bianca. Mia moglie, che era anche una mannequin, fa subito, che bella, che sogno, che meraviglia. Lo volevi dirci? Era la vigilia di Natale, ci ho detto, dai, c'è un taxi, vai a casa che vedo se trovo il padrone. Il padrone l'ho mica trovato. Allora alle 5 della mattina, gomito giù la vetrina, gociapà, la pelliccia, manichino e tutto, e gliel'ho portata a casa. Il nostro primo obiettivo è stata la Fiat. Beh, aveva un senso, non poteva essere altrimenti. Si trattava di andarci a prendere le buste paga del turno di notte. Danilo conosceva il posto, la topografia, gli orari, le abitudini del personale. Ci sarebbero stati una ventina di milioni. E il 14 maggio, verso le 9, prendemmo la 1100 di un ingegnere in via Juvare e la portammo in barriera. Io non avevo mangiato. Consiglio di Danilo, mai ingozzarsi prima di un'azione, diceva sempre. È la regola del partigiano. Si diventa pesanti, coi riflessi lenti, lo stomaco dilatato, la pancia piena. È pericoloso anche se ti prendi una pallottola in pancia. Partenza, Corso Mortara, via Livorno, via Don Bosco, tutto bene. Le armi erano a posto. Montato e carico anche il mitra. Fucile Mauser sarebbe rimasto in macchina. Quello serviva per i carabinieri. Se venivano a scocciare. Non bisognava assolutamente colpire operai. Assolutamente. Per i guardiani sparare solo in caso disperato, ma senza ucciderli. Il primo comandamento del guerrigliero. Non perdere mai la testa. Mai. Ecco la macchina con le paghe. E allora noi usciamo con le pistole mitra spianate. Il capoguardione mi tira contro una bici. Infila la mano sotto la giacca per estrarre la pistola, ma una breve raffica di mitra sopra la testa gli fa passare la voglia. Beh, intanto Danilo... Dato Danilo è già entrato negli uffici. Nel box della cassa. Gli ha preso i soldi. Era su di giri. Gli sembrava di essere tornato ai bei tempi. Cioè, i brutti tempi. Quelli della resistenza. Notammo che c'era un blindato che ogni mattina alle 8 in punto usciva dalla Banca Popolare e andava a portare una valigia. Era un blindato che portava i soldi per tutta la giornata alle 34 filiali. Come luogo per la rapina scegliemmo la via Osoppo. Ci servivano 4 mezzi e almeno 7 uomini per fare il colpo. Allora c'era Russo, che è il membro che è entrato più tardi nella banda, che avrebbe guidato la macchina per la fuga. Russo, qua al volante dell'ammiraglia. Il Bolognini doveva stare a terra con la mazza, sfondare il finestrino del blindato e occuparsi del guidatore del blindato. Bolognini frantumò il finestrino del furgone. Ciappina tenne a bada il bottino. Cesaroni doveva guidare il camioncino con le valigie e io mi presi il compito più difficile. De Maria guidò il camion contro il furgone. Come data scegliemmo il 27 febbraio del 58. E scegliamo il 27 febbraio perché era giorno di pagamento e quel giorno la banca aveva bisogno dei contanti. In mezzo della rapina, a un certo punto, una vecchia che esce da una salumeria ci vede lì, armi in pugno, e ci urlo: «Già Laura!» Cioè, andate a lavorare. E io proprio tranquillo la guardo e dico: «Signora, ma cosa crede che stiamo facendo? È il nostro lavoro questo qua». Sottolineavano il fatto che il colpo era stato fatto da professionisti, sangue freddo. E in particolare la gente rimase colpita dal fatto che riuscimmo a disarmare il poliziotto in realtà senza sparare neanche un colpo. Io passavo anche per un ladro, diciamo, gentiluomo. Andavo in gioielleria con un mazzo di fiori che mi serviva perché così nascondevo il mitra. E lì le commesse, quando poi arrivava il mio complice con la pistola, si gettavano con le braccia intorno al mio collo, no? Per farsi salvare. Un'altra volta a Milano siamo andati in banca e il cassiere ci fa: «Ancora qua voi altri? Come ancora qua? Arrivo adesso?» No, sono andati via stamattina gli altri rapinatori, erano quelli di Cavallero. La Madonna, avevi capito? Non c'era coordinamento. E allora. Mi fa, se volete, vi do gli spiccioli. Lascia sta, se mica dei barbunci, ho detto. Se mica dei barboni. Passeremo un'altra volta. Siamo andati a rapinare la casa di risparmio lì vicino. Novembre 1965 a Milano, tre banche in 48 minuti. Ormai non attaccavamo più un solo obiettivo per volta, ma due o tre. La preparazione era sempre lunga e complicata, e rubare le auto sempre più pericoloso. E fu per questo che escogitammo le doppiette e le triplette, e la polizia ne fu disorientata. Non ci fermava nessuno. Noi non avevamo paura di nessuno. È così che siamo entrati nella storia di Milano. Come per la faccenda dell'Aprilia Fantasma, l'auto dei nostri colpi. Nessuno sa che di Aprilia noi ne avevamo parecchie, mica una sola. E tenevamo nascoste. Come si fa ad andare in giro con le macchine tutte sforacchiate dai proiettili? Su di una ho contato 120 fori di proiettile. Tante sventagliate quando cercavano di fermarci ai posti di blocco. Rubavo, abbassavo la testata del motore e ci mettevo dentro un carburatore Weber doppio corpo. La polizia aveva una stura, una balilla. E chi lo prendeva? Il barbiere. Tutte le sere a Torino e Milano facevano retate che inevitabilmente non approdavano a nulla. Il primo posto dove vanno a pescare è tra i ricettatori. Le puttane, gli sfruttatori, gli omosessuali e tutti quelli che vivono ai margini, tra la mala e la madama, pronti a servire e a inculare l'una e l'altra a seconda se c'è l'occasione. Pericolosi come la peste. Ma non era il nostro ambiente. Piaceva vivere bene. Abbiamo avuto tutto. Ogni desiderio potevamo soddisfarlo. Voi vedete una bella donna e dice mi piacerebbe. Noi dicevamo la voglia. E la prendevamo. Eravamo pieni di soldi. 20.000 lire, due notti con una baleninetta. C'è stata una cantante lirica che mi ha mandato a salutare dopo l'arresto. Beh, lei mi conosceva come l'ingegner Paolo Müller. Impossibile che l'ingegnere abbia sparato. Ha detto così. A Napoli sono stato fidanzato anche con una condessina. Vivevamo nei grandi alberghi. Battista, che giorno è? Mercoledì, signore. Tempo, sole, signore. Bagno tiepido, non caldo. Bene, signore. Colazione, quello che vuoi tu, Battista. Da morire da ridere. Mi cercava nei bassi fondi, ma io ero negli alberghi a 5 stelle, io ero nella Costa Azzurra, io bevevo champagne, mangiavo il caviale, le ostriche, io ero in mezzo agli industriali, ai grandi magnati, ai principi, capito? Cioè, io mi facevo tagliare i cappotti su misura, c'era la Cala, Sonassis, tutta quella gente lì, io condividevo la vita con loro, lì nel mio brodo, cioè, insomma, non è che condividessi proprio la loro vita, però stavo lì, era la mia vita. Ero io lì e nessuno poteva credere che io fossi lì. E poi vivevo a Mannheim, in una bella villa lussuosa, con la mia giovane amante vestiti eleganti, auto sportive. Ho rubato un bel po' di milioni. Quel peccione accanto, dormendo stai, eh? Vieni al sodo. Ci vorrei io là, al posto tuo, Ugo. Un piccione! Con la dai migliorata, eh? Ora ha più esperienza. Sai, non ha perso tempo. Sei troppo cretino per parlare di donne, Rocco. La ricchezza o morire, no? Non è questione di ragione o di torto. Era così. È andata male. Pensare che quello di Roma doveva essere l'ultimo colpo. Io ho ucciso per la prima volta il 17 gennaio del 67, a Cirié, al San Paolo. Fu un incidente. Avevo il mitra senza sicura per distrazione e quando colpì con la canna e il dottore che si muoveva, beh, sfuggì un colpo. Si chiamava Domenico Gaiottino. Che sia stato un atto volontario o una disgrazia, cosa cambia? Cosa cambia per la vittima e per chi è rimasto? Sì, c'è il pentimento, ma è indicibile. Le parole possono solo renderlo banale. Non rimpiango nessuno dei morti che ho fatto. Perché dovrei? Per me fare i senarnuzzi valevano 300 degli altri. Mi dispiacque soltanto per quella gente ferita, Tonelli, perché aveva la mia età, era giovane come me. Ma sono contento che ce l'abbia fatta. L'unico che è stato capace di fregarmi sul serio è stato il conte Mino. Lui sapeva tutto di me. Dove abitavo, i piani che avevo con il Bezzi. E il 2 novembre del 45 si fece arrestare dalla madama, fatto di coca in mezzo alla strada. Poi in questura andò giù, raccontò ogni cosa. Quella stessa notte udimmo 3 colpi di campanello, il segnale per gli amici nell'appartamento di via Clefi, che era anche il nostro quartier generale. Io dico, chi è? Sono Mino, aprite, mi hanno ferito. Io ero lì con la mia Tina, la mia innamorata. Le dissi di aprire, lei spalancò la porta. E accadde il finimondo. Raffiche di mitra, colpi di moschetto. La Tina si era gettata per terra, io credevo che fosse rimasta uccisa. E così lanciai una bomba a mano e cominciai a sparare anch'io, no? Il Bezzi si squagliò, io restai da solo contro 100 per una notte intera. Mi hanno preso alle 8 del mattino. Stremato. E poi giù botte. 3 costole e un braccio rotti. Finché la lingua gonfia sembravano starci più dentro la bocca. Sentii un medico che diceva: questo non è il suo posto, era meglio portarlo in obitorio, morirà presto. E invece sono sopravvissuto. Un giorno mi hanno arrestato, la seconda volta, era il 67, mentre cercavo di fare una rapina a Saint-Tropez. Insomma, m'hanno arrestato, mi sono fatto un po' di carcere in Francia, dove le regole sono disumane. Io tant'è che ho cercato di evadere ad Aix-en-Provence, ancora con le catene ai polsi, solo che mi hanno preso subito. E da quel momento in poi che le porte della gabbia non si sono più aperte. Tutto finì il 16 dicembre del 50, a Bologna, dove era cominciato. Se quelli della polizia arrivavano 5 minuti dopo, forse non ci avrebbero neanche più pescato. Aspettavamo da un momento all'altro una macchina, dovevamo andare a Milano. Per noi Bologna era sempre stato un posto di passaggio. Avevamo i nostri progetti, ma non sempre il conto torna. Il terrore si chiama Casaroli. Questa volta però non è il famigerato rapinatore a sparare sotto i portici di Bologna. È Renato Salvatori, che sostiene la parte del bandito nel film di Florestano Vancini. La vicenda ricostruisce cinematograficamente le gesta della banda che si rese tristemente famosa in Italia nel 1950. Peccato che avessi esaurito le munizioni quel giorno. Quando mi vidi definitivamente spacciato, io portai il revolver alla tempia e tirai il grilletto. Niente da fare. Sono morti da cretini, hanno voluto morire, come il cassiere della banca. Andava contro il mitra di Farri, sono da matti. E l'autista vedeva il maresciallo a pancia all'aria, sentiva il vigile lamentarsi, aveva una pistola puntata contro il petto e Ranuzzi che gli gridava: salta al volante. Lui che cosa fa? Si attacca al telefono, vuole chiamare la questura, ma è la verità. E quei vigili? C'era uno che sparava nascosto da dietro una colonna, ma senza tirar fuori la testa. E io con un colpo gli ho fatto saltare la spallina. E lui che si è messo a gridare, si lamentava: la mia spallina, guardate, mi ha fatto saltare la spallina. Buffone. Sarebbe bastato saltare un fosso. Il Bezzi era agile. Avrebbe potuto gettarsi in un cespuglio di robini e il gioco era fatto, hai capito? La sera stessa sarebbe riapparso più brillante che mai in qualche balera di periferia per raccontare ai clienti come anche quel giorno, il 26 febbraio 1946, l'aveva fatta in barba alla madama. Gli hanno spappolato la testa con 2 raffiche. Dissero che non cadde subito. Continuò a pedalare, morto. Spinto dalla forza di inerzia e dalla strada in discesa. Fu il grande pomeriggio di Sandro Bezzi. Morto ammazzato in bicicletta in una strada di Greco. Con un giornale steso sulla faccia, in mezzo alla folla, in silenzio. I tram erano pieni di persone arrivate fino a lì per vedere il bandito ucciso. Ezio Barbieri, detto il moschettiere del mitra. Una raffica l'aveva colpito al braccio destro prima dell'ultimo viaggio a San Vittore. Il socio di Barbieri era Sandro Bezzi, più freddo e meno esibizionista. Cadde sull'asfalto milanese dopo un tentativo di sfuggire alla trappola della polizia lo stesso giorno della cattura di Ezio, 26 febbraio 1946. Sapete cosa è successo dopo? Finimmo accerchiati dentro un'automobile. Io ero umano. Lui si sparò sul sedile posteriore. Fui crivellato di colpi. Rimasi ferito gravemente. Faris era riuscito a fuggire nascondendosi in una bisca. Venne a sapere che io e Ranuzzi eravamo stati colpiti. Pensò che fossimo morti. E così raggiunse il cinema Manzoni. Durante una proiezione si piantò una pallottola nel cuore. Stavamo tornando a Parigi, dopo un colpo con due miei complici. C'era un belga e l'altro l'algerino. L'algerino a un certo punto mi fa: guarda, siamo rimasti senza benzina nel serbatoio. Ma come? La Madonna, ma come siamo rimasti senza benzina? Vabbè che la macchina è rubata, però... Porco disi, bisogna pensarci a queste cose qua. Vabbè, niente, allora ci fermiamo a fare benzina. Soltanto che lì, alla stazione di servizio, vediamo che c'è una Peugeot della polizia francese parcheggiata. Non ci facciamo neanche caso lì per lì. Evidentemente, a posteriori, ho pensato che questa stazione è stata assaltata più volte e quindi c'era lì pronti ad assaltare in testa ai primi che passavano di nuovo, no? Però a un certo punto arrivano questi due al finestrino, ci fanno documenti. Come documenti? L'algerino ingrana la marcia e via. E parte l'inseguimento. Soltanto che l'inseguimento per le vie di Parigi è durato 3 minuti. Perché? Perché? Perché eravamo senza benzina. E allora? E allora niente, fa: si salve chi può, ci sono le calcagna. Allora io salto giù dalla macchina e comincio a correre. E corro e corro e corro come un disperato, finché a un certo punto sento degli spari dietro di me. C'è uno che mi corre dietro a me e mi spara. Mica in aria, mi spara a me, nella schiena a me. Pam! Sento un colpo nella schiena e lo sento. Lì per lì non mi fa neanche tanto male, però mi ha colpito. E dopo mi spara un'altra volta, mi prende al braccio sinistro e la gamba destra. E lì comincia a farmi un po' male. Perdo una delle due pistole e l'altra però comincia a sparare. E lì comincio ad arrancare, capito? Perdo sangue, la gente comincia a gridare, aiuto, così. E mi trovano dopo un'ora morente sotto un portone. Ho detto su una preghiera per la mia mamma, una per la Yvonne. Mi ha portato all'ospedale, così sull'ambulanza e... Poi non mi ricordo più niente perché sono passati 40 giorni e sono stato in coma. Infezione da piombo, mica da ridere. Però ho superato anche quella. L'ho superata. Nostra ultima azione fu il 25 settembre 1967, filiale 11 del Banco di Napoli, Largo Zandonai, Milano. L'assalto fu di una perfezione tecnica. Ormai eravamo dei veterani, solo che dopo, per caso, fummo intercettati dalla polizia. Si attaccavano alla città da ore per un'evasione da San Vittore, ma il resto è cronaca. Sparatorie per la strada, morti, feriti, Rovoletto catturato. Volete sapere poi come hanno fatto a prenderci? Come è noto, le 7 tute che servirono ai rapinatori della milanese via Osoppo sono state rinvenute sul greto dell'Olona da uno stracivendolo. Purtroppo nessun dato utile alle indagini si è avuto dal loro esame. Per quanto scosse e riscosse, voltate e rivoltate, dentro non c'era più nessuno. Era roba che noi avevamo rubato da Pucci e fu tutta colpa del Pucci. Ho portato in questura... E poi far cantare uno come il Pucci fu un gioco da ragazzi, bastò minacciarlo e sbatterlo in galera e fece i nostri nomi. così, mani dietro la schiena, ci portarono ognuno in un ufficio diverso e ci interrogarono. 5 giorni e 5 notti infiniti. Io ho preso talmente tante botte che non sentivo più. C'avevo il collo completamente tumefatto, gli occhi gonfi, non riuscivo a deglutire, non vedevo, non andavano avanti. Comunque, insomma, non c'era bisogno di altre violenze perché eravamo spacciati. Giorni di latitanza. Ci cercarono dappertutto. Posti di blocco, rastrellamenti, arresti in massa di pregiudicati. L'operazione costò centinaia e centinaia di milioni allo Stato. Commissario? E venne il 3 ottobre. Ci eravamo nascosti in un casello abbandonato. Non c'erano soldi, non c'erano amici. Eravamo solo io e Sante e tutto il mondo contro di noi. Mi vide arreso. E io capii che in quel momento lui arrivò ad odiarmi. Povero Sante. La verità la sapeva anche lui, ma non voleva dirsela. Era sempre stato impossibile fare quello che ci eravamo proposti all'inizio. Ma quale progetto politico? Quali rapine rivoluzionarie era? Danilo l'aveva capito prima di me. Lui voleva fare il colpo grosso, poi ritirarsi in santa pace, ma io non volevo smettere, non riuscivo. Volevo continuare a fare quello che avevamo sempre fatto. Mi piaceva. Mi piaceva. Quella era la mia guerriglia, la mia lotta. Il processo durò un mese. La sala delle udienze era sempre piena di gente, anche di curiosi. E tra gli altri mi ricordo c'era questa Maria Grazia. Poi è andata avanti per tutti e 16 anni di carcere a scrivermi in galera. E, comunque io mi sono beccato 20 anni 8 mesi. Cesaroni 18, Ciappina 16, Arnaldo 14, Russo e Castiglioni 9 e 8. Segapeli, il mio avvocato, spinse per la semi-infermità mentale. Voleva farmi passare per schizofrenico. Nella sua ultima arringa descrisse il mio presunto stato mentale. Vediamo, tra i sintomi c'erano egocentrismo, narcisismo, bizzarria, fatuità, impulsività, instabilità, manierismo, incoerenza verbale, manie per le fughe e la violenza, autolesionismo, attacchi epilettici, suggestionabilità, idee di grandezza, disaffettività, poi la mia preferita, gusto per l'avventura, giuro. Ma ne avrò dimenticati un paio, poi concluse con la dovuta gravità. Casaroli è lucido, ma come disse Anatole France, non c'è nulla di più tragico in un pazzo della ragione. L'ergastolo. Donato se la cavò con 12 anni. La condanna non mi ha toccato molto, no. Era scottato. Ve lo ricordate? In tribunale, durante la sentenza, io, Sante e Adriano ci siamo alzati e abbiamo cantato Figli dell'Officina. Beh, un tempo la cantavamo sempre, nelle manifestazioni. Ora la impressione che ebbi quando mi portarono al penitenziario e mi misero nella quarta sezione, quella degli ergastolani. Ricordo che mentre percorrevo quei corridoi vidi della gente seduta sulle loro brande che sferruzzava intorno a una calza. Un silenzio, quasi tombale. Poi cominciai a frequentarli, era gente che aveva rifiutato la coscienza, gente che viveva nel presente immediato, faceva per azione riflessa il suono della campana, l'ora della minestra. Ogni gesto era un atto automatico, uno stato crepuscolare, sonnambolico. L'impatto fu tremendo. Invece che rinunciare alla coscienza, passato, presente, mi dissi che se riuscivo a capire la morte, avrei superato il trauma dell'ergastolo. Per me fu un'avventura enorme, tremenda. L'anacoreta in fondo alla caverna che si interroga giorno e notte continuamente come un'ossessione. Chi sono? Dove sono? Perché esisto? Ho letto molti libri di tutti i tipi. Era la ricerca della verità ultima. Non è stato facile, certo. A San Vittore, i primi giorni sinceramente furono anche più duri. Io mi ricordo, spaccai un vetro col braccio e con una delle schegge mi volevo tagliare le vene. Poi però sto vetro mi scivolava via dappertutto e non riuscii, mi sa che non ero neanche tanto convinto di quello che stavo cercando di fare. Però insomma ero messo male. Ho pensato spesso di farla finita. Mi succedeva la notte, in cella, come un copione che si ripeteva puntuale, con un tocco delicato, quasi in sordina. come mi giungeva lieve, come lo sciacquettare dell'acqua sulla riva e l'introduzione della seconda rapsodia di Liszt. Un brivido percuoteva tutto il mio corpo, rapito dall'estasi di quell'incanto, l'adolescenza, la Silvia, mia sorella, la mamma, il primo amore, le prime delusioni. Sono anche una cosa seria, ma a me non mi fa paura. Neanche i cadaveri mi impressionano. Forse metterne un paio qua dentro, basta che non puzzino, però non mi darebbero alcun fastidio. È la legge, vince più forte. Io sono conseguente, ve l'ho detto. Da San Vittore fui trasferito a Lecce per 4 anni. Lecce è peggio ancora, perché a Lecce c'erano gli ercastolani, che sono il peggio, sono bastarditi col mondo. Ti parlo di ergastolani in tempi in cui l'ergastolo era ergastolo, nel senso che la gente in carcere ci moriva, non davano indietro neanche il corpo, c'era proprio il cimitero interno. E questi erano cattivi, proprio, cioè gli altri detenuti facevano bere l'acqua della pulizia dei cessi. La situazione del carcere era quella che sappiamo. C'era dentro gente di ogni risma. C'erano i politici e i delinquenti comuni. C'erano i condannati a morte e c'erano anche gli altri. Io ero stato messo nella cella di segregazione insieme ai condannati alla fucilazione. E la sera prima di quella Pasqua, il 21 aprile, i politici avevano organizzato una specie di incontro di box. E gli altri, quelli degli altri raggi, volevano assistere. E così sono cominciati i primi malumori. Il direttore del carcere ha mandato 24 guardie armate. Ma cosa potevano fare 24 guardie armate contro quelle centinaia di scalmanati? Per 3 giorni San Vittore è stato in rivolta. Al comando del bandito Barbieri e dell'ex gerarca Caradonna, i detenuti avevano catturato 31 ostaggi, tra cui 2 commissari di pubblica sicurezza. Erano armati di mitragliatrici pesanti, di un Panzerfaust, e possedevano 30 kg di tritolo. Se avessimo voluto, avremmo potuto fare decine e decine di morti tra i militari che ci assediavano. Sarebbe stata una strage. Io li ho convinti a non farlo. Ho salvato 38 ostaggi che stavano per essere giustiziati. Hai capito? Drammatiche, io dettai le mie condizioni. Dimissioni del direttore, miglioramento del vitto, libertà di movimento all'interno del carcere e l'amnistia generale. Alle 2 di notte annunciamo che avremmo atteso il responso entro le 8 del mattino. E dopo avremmo cominciato a far fuori gli ostaggi. Lo so, io mi esposi coraggiosamente, forse troppo. Però del resto la situazione interna alle mura era diventata insostenibile. Alle 15.30 dell'ultimo giorno la polizia sparava la prima cannonata e alle 15.31 compariva la prima bandiera bianca a un finestrone del secondo raggio. Gli arditi della Nembo, della Folgore e della Legnano si sono incaricati dell'operazione. Un silenzio sinistro regna nel carcere. La rabbia degli insorti non ha rispettato neppure il crocifisso. Un primo scaglione di detenuti è fatto uscire mani in alto. Pare che all'ultimo avessero tentato di scavare una galleria che li avrebbe congiunti con una fognatura, permettendo la fuga. Alle ore 17 risultavano già usciti ben 1.351 detenuti. Alle ore 20 i rastrellamenti erano finiti. Non mancavano all'appello che una decina di uomini. Ecco Barbieri. I connotati di questo delinquente ispirano cinismo e crudeltà. E i suoi compagni non sono da meno di lui. Regolini. Barbieri II. Mores. Faustini. Bonasegale. Thank you. Buonasera, le principali notizie di oggi. Nel carcere di Fossano, in Piemonte, un detenuto armato ha ferito 3 agenti di custodia ed ora è asserragliato in un ufficio tenendo in ostaggio altre 2 guardie. Il detenuto Horst Fantazzini, 30 anni, di Bologna, condannato a 22 anni di reclusione per rapina pluriaggravata, ha tentato di fuggire sparando all'impazzata nel cortile del carcere. Trovato chiuso il portone, si è poi trincerato nell'ufficio del direttore con 2 ostaggi. Il detenuto ha chiesto al vice procuratore generale della Repubblica di Torino una grossa somma di denaro e un'auto veloce con il serbatoio pieno, promettendo di liberare gli ostaggi sani e salvi qualora non venga inseguito o impedito nella fuga. Ma era un bluff, io avevo una piccola Mauser con pochi colpi e già 3 li avevo usati per... con quei 3 sbirri me ne rimanevano soltanto 2... Quando siamo usciti dal carcere per andare verso la Giulietta, che era lì, come avevo chiesto, col motore acceso, le portiere aperte. Mi hanno crivellato di colpi, mi hanno mollato addosso anche 2 cani lupo, di cui uno, povera bestia, mi ha anche salvato la vita perché si è preso i colpi per me. E quando mi hanno portato via in barella, sentivo la gente che urlava, che voleva la mia morte. E poi mi hanno operato, ma non mi hanno mica tolto tutti i proiettili, mi hanno lasciato una miriade di pesetti, pesettini. Insomma, da quel momento in poi è cominciato il mio calvario, perché hanno cominciato a portarmi per le carceri di mezza Italia senza avvertire nemmeno i miei parenti, a volte nemmeno il mio avvocato. E insomma, poi l'anno dopo, a Sulmona, io cerco di evadere, scavalco un muro di 5 metri, mi rompe entrambi i piedi, mi trascino verso una chiesetta e rapisco, insomma, un prete, perché volevo che qualcuno mi operasse. Fortuna arrivò il 1974. E così, 16 anni, un mese e 16 giorni dopo essere entrato in carcere, ne uscii come uomo libero. Naturalmente, appena uscito, diciamo, il mio bisogno di sesso si fece sentire più che mai. Però ero pieno di paure e di imbarazzi, finché una sera decisi, insomma, che in qualche maniera dovevo provare e abbordai una prostituta. E lei fu così dolce, comprensiva. Mi ricordo, mi raccontò che anche suo marito era in carcere e che quello era il motivo, diciamo, per cui era finita a fare quel lavoro lì. Parlammo un po', poi andammo nel suo appartamento, ma fu veramente dolce, gentile, al punto che, dopo che chiacchierammo un po', mi sentivo in paradiso. Insomma, fu bello, mi tolse ogni complesso sulle mie capacità sessuali e la lasciai contento, diciamo. È felice. Me lo dissero così, all'improvviso, senza preavviso. Prendete la vostra roba e uscite. Praticamente mi buttarono fuori. Quando uscii, ebbi un'esperienza del tutto puramente fisica. Intellettualmente avevo capito, ero al passo, ma la velocità delle macchine, ad esempio. Non riuscivo a metterla a fuoco. Anche l'altezza delle scale, rischiavo sempre di cadere. Poi tutto quello. Tutto quello sgonnellare, quegli stimoli erotici sottili, continui, come una nube, come uno sfarfallare di colori. Incidenza. Cercavo un tassi, Ugo. Esco dopo 3 anni. È l'ultima persona con cui voglio passare i miei primi momenti di libertà. Sei tu, Rocco. Cercavo un'auto, no? Eccola qua. Ti accompagno, dove vuoi andare? Non vado in nessun posto. Bene! Io ti accompagno in nessun posto, va bene? Sale, sale. Qua, accomodati, alla mia destra. Ladrone! Vieni, vieni. Io rimasi assordato dal frastuono di Milano, che dalle macerie della guerra si era trasformata in una città, in una metropoli, capito? Moderna, con ben 2 linee della metropolitana. Immaginavo che le donne fossero diventate tanto graziose e disinvolte. Proprio io che con la mia aria da bandito neorealista avevo sedotto tante ragazze. Ma soprattutto avvertì la sensazione di essere trasparente. Nessuno si fermava più a guardarmi. Milano si era dimenticata di me. Marzo 1967. Sono un uomo libero. Il presidente della Repubblica, Giovanni Leone, mi ha graziato. Luciano Lutring, il solista del Mitra, è ora un uomo libero. Vive a Milano, vive di pittura. Lutring ha duramente pagato il suo passato. Adesso può permettersi anche qualche civetteria. Quella, per esempio, di autenticare i suoi quadri con l'impronta della mano, una specie di summa delle impronte digitali, e con 5 punti neri a rappresentare i comandamenti della malavita. Come mai questa mano nera? Ma guardi, io ho sempre stato abituato a mettere questa impronta come se fossi in questura. È un segno di riconoscimento delle mie opere. Un bilancio della mia vita da uomo libero? 2 splendide figlie? Gemelle? 20 anni? Katiusha e Natasha? La pittura è stata l'inizio di tutto, della nuova vita. Mi hanno anche dato qualche premio. E poi mi sono inventato il mio epitafio. Qui giace un uomo che in vita sua ha corso molto. E che adesso che è morto, vorrebbe riposare in pace. soldi della rapina di via Osoppo e la polizia non li ha mai trovati. Se devo essere sincero, non li ho mai trovati neanche io. In prigione ho trovato una cosa che non si può rubare. La fede. Sì. Lo so. Detto da me sembra una presa in giro, ma è vero. Io adesso vorrei solo essere dimenticato. La mia paga me la darà colui che giudicherà tutta la mia vita. E questo mi basta. E io in tutti questi anni mi è capitato spesso di sognare di scappare dal carcere, però chiaramente nei sogni il carcere è ben diverso da questi qua. Sì, era strano perché la gente era normale, c'erano addirittura i miei parenti, mia moglie. E io sognavo di scappare, ma nonostante scappassi, io non riuscivo mai a seminarli. Nonostante tutto quello che facevo, insomma, ce l'avevo sempre addosso. E tutte le volte mi svegliavo con una sensazione di sconfitta. Mi capita ancora di fare questi sogni. Però non è che penso di evadere, perché alla mia età, insomma, sembrerebbe anche quasi grottesco. Però qualcosa nel cervello è rimasto. Questo sogno che non si spegne. Nella mia giornata classifico 9 modi di essere vivo e 5 soltanto di esistere. Ecco le 5 creazioni positive. Vivo, mi sento vivo. Quando cerco qualcosa, quando traduco per iscritto questo mio pensiero, quando studio un buon romanzo, vivo se sono stimolato da una conversazione interessante. Mi sento vivo quando vengo assediato dal telefono. Si vive quando si mangia di fame vera. Vivo quando sogno. 8, 9. Vivo se faccio una rapina.